Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sul mio patrimonio e sulla mia casa sono state dette fesserie colossali. Così si difende Giancarlo Galan in una conferenza stampa sull'inchiesta Mose. I magistrati, aggiunge, non hanno voluto ascoltare. Dopo l'assemblea di ieri, le centinaia di turisti rimasti fuori dagli scavi, è stata sospesa l'agitazione sindacale a Pompei. Franceschini punta ad assimilare gli scioperi nei musei a quelli nel servizio pubblico. Caso Iara, il procuratore di Bergamo a Radio 24, credo si possa andare a giudizio immediato per Bossetti. La nostra è una verità scientifica, crediamo o non crediamo alla scienza. Il segretario di Stato americano Kerry è arrivato a Baghdad, incontro col premier al-Maliki. Continua l'avanzata degli estremisti islamici, molte città sotto il loro completo controllo. Firmato in Francia l'accordo tra General Electric, che acquista la parte energetica di Alstom. Gli americani promettono 1000 posti di lavoro in 3 anni e dovranno pagare 50.000 euro di penale per ogni posto non creato. Verso la coppia Balotelli, immobile per l'attacco italiano contro l'Uruguay. Lo spettro del fallimento aleggia sulla spedizione azzurra ai mondiali brasiliani. Si apre oggi l'assemblea della Lega Calcio sui diritti TV per la Champions League in corsa Sky e Mediaset, ma i giochi potrebbero non chiudersi proprio nella giornata di oggi. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, 349-238-6666 per i vostri sms. Mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/Effetto Giorno. Iniziamo dalle vicende di Galan, che ha tenuto adesso una conferenza stampa. Non so se è terminata, lo chiedo direttamente ad Andrea Viali, che la seguite, la sta seguendo per noi. Andrea, buongiorno. Sì, è così, buongiorno Simone. Ha negato ogni addebito Giancarlo Galan in questa conferenza stampa che è appena concluso, che è appena conclusa, e coinvolto nell'inchiesta sul Mose. L'ex governatore del Veneto oggi ha anche depositato una memoria difensiva alla giunta per le autorizzazioni della Camera, che dovrà decidere sul suo arresto, arresto chiesto, lo ricordiamo, dalla Procura di Venezia. In realtà nella conferenza stampa Galan ha illustrato i punti di questa sua memoria difensiva, ha detto: avrei preferito parlare prima con i giudici, ma non hanno voluto ascoltarmi, ha spiegato polemico il deputato di Forza Italia, polemico anche con i giornalisti, ma sentiamo le sue parole. No, abbiamo un problema con l'audio, Andrea, vai avanti tu. Allora, bene, in realtà Galan ha detto di essere stato investito da un ciclone umano, mediatico e giudiziario che mai, ha detto, avrei pensato, ha detto di non avere le colpe che gli sono attribuite, ha respinto punto per punto le accuse che gli vengono mosse sulle mie condizioni patrimoniali e sul restauro della mia villa, sono state dette fesserie colossali, non ci sono prove che io abbia avuto dei soldi, ha detto l'ex ministro, che mercoledì sarà sentito anche dalla giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. Simone, è tutto. E grazie al nostro Andrea Viali. Passiamo adesso a parlare di Pompei, perché ieri, come sapete, c'è stata un'assemblea sindacale che ha costretto i turisti a restare fuori, alcune centinaia di turisti a rimanere fuori dagli scavi, e se n'è tornato naturalmente a parlare oggi. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Simone, c'è dunque una buona notizia che arriva finalmente da Pompei. Questa mattina le agitazioni sindacali sono state sospese, l'accesso da parte dei turisti è ripreso regolarmente. Tutto questo, come dicevi anche tu, dopo giornate di sciopero che hanno messo a dura prova il sito archeologico più importante al mondo, soprattutto i turisti, molti dei quali ieri sono rimasti fuori dai cancelli per ore. Al centro delle rivendicazioni la riorganizzazione del lavoro, la richiesta di incentivi, sindacati che anche questa mattina avevano bloccato gli ingressi degli scavi per un'assemblea durata oltre 2 ore, che poi è stata sospesa poco prima della conferenza stampa con cui è stata annunciata, questa è un'altra notizia, la riapertura agli spettacoli del Teatro Grande, rimasto inagibile per 4 anni. E allora sentiamo come sono andate le cose dallo stesso sindaco di Pompei, Ferdinando Uliano, raggiunto poco fa. Ieri sono arrivato qui, c'era tanta agitazione, ma basta il dialogo, un rispetto per questo sito. Allontanare con, per un'agitazione i turisti da Pompei vuol dire fermare un attimo l'economia. Cos'è che ha contribuito a questa sospensione? Cioè si aprirà un dialogo, trattativa? Perché il sindaco rappresenta gli esercenti, gli imprenditori, i commercianti, i venditori ambulanti. Quindi insomma si sono convinti, però le loro richieste le porteranno avanti, ci saranno... Ci sarà un tavolo di concertazione. Fortunatamente c'è stata subito un'intesa con il sovrintendente, il professor Sanna, lavoreremo insieme da oggi. E ricordiamo che da queste agitazioni aveva preso le distanze il leader della CISL Bonanni, proponendo addirittura il commissariamento della CISL di Pompei. E poi è intervenuto anche il ministro dei beni culturali Franceschini: basta scioperi nei musei o nei siti, sono servizi pubblici. E iniziative del genere, ha detto Franceschini, ledono l'immagine dell'Italia nel mondo. E per ora è tutto, Simone. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi e all'ascoltatore o ascoltatrice non si firma che ci scrive via sms al 349-238-6666, ci dice: qui da Pompei posso dire che sono mesi che ci sono assemblee, lo sappiamo, naturalmente come avete sentito il governo pare intenzionato ad intervenire, siamo tra l'altro in attesa e vedremo se riusciremo a collegarci col sovrintendente Osanna. Parliamo di cronaca adesso, è scattata alle 4 di questa mattina l'operazione Apocalisse, la più imponente operazione antimafia degli ultimi anni. Due mandamenti, Resuttana e San Lorenzo, sei famiglie mafiose. In tutto sono 95 le persone colpite da provvedimenti restrittivi, 78 in carcere, molti ai domiciliari e 4 con il divieto di dimora in città. Sono capi e gregari di storiche famiglie di Cosa Nostra, nomi importanti come quello di Girolamo Biondino, fratello dell'autista di Totò Riina, ma anche Angelo Galatolo, figlio del boss coinvolto nell'omicidio dalla chiesa. Tra gli indagati c'è anche Pietro Franzetti, candidato alle comunali palermitane tra le file dell'UDC. Sentiamo ai microfoni, al microfono di Marisa Labanca, il tenente colonnello della Guardia di Finanza di Palermo, Calogero Scibetta. Era un controllo del territorio molto capillare, controllo del territorio che poi si esercitava con le estorsioni ma anche con l'imposizione delle macchinette per il gioco online e sulle quali appunto l'organizzazione trovava un'ulteriore fonte di sostentamento. Adesso stiamo sequestrando le aziende, erano 8 aziende nella disponibilità degli indagati e le stiamo sequestrando in quanto su queste aziende appunto venivano non solo utilizzate per l'attività mafiosa ma anche per reimpiegare appunto i proventi delle estorsioni, del traffico di droga. È considerata la più vasta operazione antimafia degli ultimi anni, quindi sono stati presi nuovi capi di Cosa Nostra, possiamo dire? Sono stati presi capi e gregari delle famiglie, potremmo dire, più importanti e più storiche, ecco, storicamente più importanti di Cosa Nostra. Però certamente l'organizzazione Cosa Nostra è un'organizzazione che si rinnova con una maggiore velocità, certamente avrà difficoltà a trovare capi carismatici come potevano essere questi, cioè lo stesso Galatolo che da mestre riusciva a entrare nei dettagli di ogni singola attività pur non essendo presente a Palermo, o il Biondino che, forte del nome appunto che poteva avere, poteva vantare, riusciva a imporre le sue decisioni. Un ascoltatore ci scrive a proposito del tema dell'omicidio stradale: come sapete tanto se ne è discusso e probabilmente se ne tornerà a discutere adesso dopo quello che è successo questa mattina quando un pirata della strada, le ricerche sono ancora in corso, ha investito e ucciso un bambino di 3 anni. Ancora un bambino vittima di un pirata della strada e ancora una volta nel Ravennate. Erano circa le 21 di ieri quando un bimbo di 3 anni è stato investito e ucciso sotto gli occhi della madre a Ponte Nuovo, proprio alle porte di Ravenna. Secondo la polizia municipale, il piccolo è stato travolto all'altezza delle strisce pedonali che stava attraversando con la mamma ed è stato poi trascinato per 80 metri. È morto poco dopo in ospedale. Questo bimbo di 3 anni è la terza vittima in meno di 2 mesi nel Ravennate, dopo la piccola Martina di 10 anni travolta a Faenza a fine aprile e dopo Alessio di 12 anni investito sempre a Ravenna il 22 maggio scorso. Secondo l'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, sono state ben 52 le piccole vittime morte sulla strada nel 2013, in pratica una alla settimana. Nel 2014 sono già 20 in 380 incidenti, di cui ben 24 i casi di pirateria. Un fenomeno dai numeri dunque sempre più pesanti in cui spesso c'entrano l'abuso di alcol o droga e anche le mancate coperture assicurative. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il caso di Yara Gambiraso, inquirenti e investigatori che si occupano del caso faranno il punto sulla situazione delle indagini oggi in procura, ad una settimana dal fermo di Massimo Giuseppe Bossetti. Questa mattina ospite di Radio 24, ospite di Alessandro Milani 24 Mattino, era il procuratore di Bergamo, Francesco Dettori. Sentiamo cosa ha detto. è ovviamente una certezza processuale basata su prove scientifiche definite praticamente prive d'errore, insomma. Per questo c'è l'ipotesi, secondo qualcuno, che la procura richieda il rito immediato, che ricordiamo è una richiesta che si può fare entro 90 giorni e che si fa evidentemente quando si pensa di avere in mano da parte dei magistrati delle prove appunto certe, evidenti. C'è questa volontà, procuratore? Ma oddio, questo lo deciderà la collega Ruggeri, perché è una determinazione, una decisione che spetta a lei, ritengo di sì. Poi, insomma, voglio dire, dopo tanti anni, se si riesce ad arrivare ad un giudizio dibattimentale più rapido possibile, significa dare un giusto conto del funzionamento della macchina della giustizia. Insomma, dopo aver identificato il presunto autore, ritengo che sia giusto anche per il Bossetti essere sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento. Il più presto possibile. Noi accusiamo sulla base di prove. Oddio, devo dire, c'è stata anche la valutazione del GIP estremamente concorde con l'impostazione, insomma, con quanto impostato dalla procura. Credo che si possa tranquillamente andare a giudizio immediato. Così il procuratore Dettori. Adesso noi passiamo all'estero, perché è a Baghdad il segretario di Stato americano John Kerry. Una visita non preannunciata per motivi di sicurezza, ma logica nell'ambito del tour in Medio Oriente ed Europa che Kerry ha intrapreso proprio per consultazioni sulla crisi nel paese. È sempre più intricata e pericolosa la situazione in Iraq, dove le milizie qaediste sunnite dell'ISIS già controllano vaste porzioni del territorio iracheno occidentale e settentrionale, compresi strategici passaggi di confine verso la Giordania e la Siria. È una minaccia per tutta la regione, ha sottolineato ieri John Kerry dal Cairo, esortando i leader iracheni a superare le divisioni settarie e a unirsi per rispondere alla minaccia. Non c'è nessun settarismo nelle difficoltà del governo iracheno, ha ribattuto l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, che ha estrema influenza su Baghdad. Il conflitto, ha detto, è tra chi vuole un Iraq indipendente e chi sottomesso agli americani. Washington, comunque, non intende impegnarsi sul campo, se non mandando 300 consiglieri militari che solo in parte sono già nel paese. Un aiuto concreto al premier iracheno al-Maliki l'avrebbe promesso Putin, intanto. Secondo fonti irachene, infatti, la Russia ha promesso l'invio di veicoli militari e armamenti di cui l'esercito iracheno ha estremo bisogno. Bashar al-Assad, invece, il dittatore presidente siriano, che era stato il primo a tendere una mano al premier iracheno in nome, disse, di una comune lotta al terrorismo dell'ISIS, ha in queste ore altri pensieri. Al razzo anticarro siriano che ieri sul Golan ha ucciso un israeliano e ne ha feriti altri tre, Israele ha reagito nella notte con un raid su 9 obiettivi siriani, 10 le vittime. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ci sono le parole di pochi istanti fa molto dure del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Dice: in Italia il sabotaggio della crescita appare sistematico e va rimediato. Così Squinzi, intervenendo all'assemblea di Federchimica a Milano. E restiamo sui temi economici, però, per spostarci in Francia, dove un accordo raggiunto tra General Electric e il governo francese farà sicuramente discutere, riguardo l'acquisizione di una parte di Alstom. Sentiamo. 50.000 euro di penale per ciascuno dei 1.000 posti di lavoro promessi e non realizzati è una delle clausole che accompagnano l'accordo tra l'Eliseo, Alstom e General Electric sulla cessione delle attività energetiche del colosso francese. Vincoli molto stretti che, secondo il ministro dell'industria transalpino, rappresentano un precedente. Qualche osservatore però maligna che in realtà si tratta di un contentino dato ai francesi per accaparrarsi l'affare, perché sul tavolo c'era anche l'offerta della Siemens e tutto lasciava pensare che l'accordo avrebbe preso la strada verso la Germania, alleata per l'occasione con la giapponese Mitsubishi. Invece Monsieur Hollande ha deciso diversamente. Per il comparto energia di Alstom, l'americana General Electric ha messo sul piatto circa 12 miliardi di euro, più l'acquisto della sezione segnaletica ferroviaria e il rafforzamento del comparto trasporti, e i già citati 1.000 posti. E peccato se i tedeschi avevano offerto quasi 2 miliardi in più, 2.000 posti e la promessa di un futuro matrimonio nel campo dei treni. Il presidente ha scelto diversamente, anche perché percorrendo la via americana, Parigi, a costo di svenarsi, salirà al 20% del capitale di Alstom, grazie all'intesa con il gruppo Bouygues, che attualmente ha poco meno del 30% del gruppo francese. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I mondiali e lo spettro del fallimento sulla spedizione azzurra evocato ieri dal capitano e dal portiere Gigi Buffon, il nostro inviato in Brasile Dario Ricci. Ciao Dario, buongiorno. Buon dia da Natal. Piove a dirotto? Sì, diciamo che come il più classico degli weatherman americani sono qui nel mezzo della tormenta. Forse sentite qualche eco della pioggia che cade da una decina di ore continuativamente, quindi risolto il problema del caldo avremo quello dell'alluvione e quindi affronteremo quello del campo, quello del campo probabilmente. Senti, le scelte di Prandelli, dici un po'. Ma la formazione sembra fatta, anche se poi sulla carta chiaramente i cambiamenti sono sicuramente ancora possibili, dovrebbe esserci Buffon in porta, il terzetto difensivo della Juventus è quello che dà più garanzie con Barzagli, Chiellini e Bonucci, Darmian a destra, il rientrante De Sciglio a sinistra, a centrocampo Pirlo, Verratti e poi davanti sicuramente molto probabilmente Immobile e poi chiaramente Marchisio a centrocampo e davanti Balotelli e molto probabilmente a questo punto Marchisio Immobile rispetto al quale per me adesso non sono possibile compiere. Allora Dario, no, noi ti stiamo perdendo perché probabilmente anche il clima evidentemente non favorisce i collegamenti telefonici. Io intanto ti ringrazio perché tanto poi ti ritroveremo come sempre in tutti i convocati a partire dalle 2 e torneremo a parlare di questo. Abbiamo già in linea invece il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, che intanto saluto. Buongiorno Marco. Ciao, buongiorno. Col quale parliamo di calcio, ma parliamo in realtà di diritti TV, perché oggi inizia l'assemblea della Lega che deve decidere sostanzialmente l'assegnazione di questi diritti. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è notizia di poco fa, di fonte, la fonte del governo iracheno, secondo il quale centinaia di soldati sono stati decapitati e impiccati nelle zone dove si trovano gli jihadisti dell'ISIS. Per il momento la fonte è solamente questa, quando avremo aggiornamenti ve li daremo. Giancarlo Galan si difende in una conferenza stampa sull'inchiesta Mose, sul mio patrimonio, sulla mia casa, dice sono state dette fesserie colossali. Dopo l'assemblea di ieri e centinaia di turisti rimasti fuori dagli scavi è stata sospesa l'agitazione sindacale a Pompei. Il caso Iara, il procuratore di Bergamo a Radio 24, la nostra è una verità scientifica, crediamo o non crediamo alla scienza? Verso la coppia Balotelli Immobile, lo avete appena sentito, per l'attacco italiano contro l'Uruguay, spettro del fallimento che aleggia sulla spedizione azzurra ai mondiali brasiliani, evocato dallo stesso Gigi Buffon. Allora, eccoci con Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore. Ciao Marco, buongiorno. Ciao ancora, buongiorno Simone. Allora, parliamo di quest'asta per i diritti della Champions League. Insomma, un'asta, se non fosse una questione economica, diremmo all'ultimo sangue tra Sky e Mediaset. E oggi l'Assemblea della Lega si riunisce per decidere sostanzialmente. Sì, abbiamo come dire un quadro per cui oggi dovranno essere prese le decisioni importanti da un lato per le società di calcio, perché evidentemente i soldi che arriveranno da quest'asta sul triennio 2015-18 saranno determinanti, no, per tenere in piedi il movimento, e dall'altro ci sono gli operatori TV, i grandi operatori delle MediTV, Sky e Mediaset, che si stanno contendendo la Serie A italiana dopo che Mediaset si è aggiudicata la Champions League qualche mese fa per lo stesso triennio, quindi diventa vitale per Sky aggiudicarsi questi diritti. La Lega, che inizia tra pochi minuti l'assemblea, dovrà appunto decidere quali offerte accettare. Ci sono gli avvocati al lavoro da settimane, perché non è detto che si concluda tutto oggi e non si finisca poi invece nelle aule dei tribunali. La questione è molto semplice, te la riassumo. La Lega con l'advisor Infront aveva preparato un'offerta per cui si doveva permettere a Sky di vincere almeno una quota dei diritti TV, una parte dei match sul satellite, da un lato a Mediaset invece per quanto riguarda il digitale terrestre, se non che nelle offerte presentate qualche settimana fa sembrerebbe invece aver vinto Sky, aver presentato cioè l'offerta più alta per entrambe le piattaforme, cosa che creerebbe anche problemi di antitrust, però è evidente insomma che siamo in una fase decisiva, ripeto, e per le società di calcio e per i grandi operatori TV. Allora io ti ringrazio intanto Marco Bellinazzo anche per la delicatezza con la quale mi hai corretto, naturalmente non erano i diritti della Champions ma quelli della Serie A. Grazie intanto Marco Bellinazzo, buona giornata e saluto, ciao, grazie a te. E saluto Ivan Scalfarotto, deputato del Partito Democratico, sottosegretario alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento. Scalfarotto, benvenuto. Buon pomeriggio. Ma da dove spunta questa immunità per i senatori? Che io non ho capito, perché ho visto che tra Senato stesso sostanzialmente e governo ci si continua a rimpallare la responsabilità. Oggi Finocchiaro dice quella cosa il governo la sapeva benissimo, quella bozza l'ha esaminata. Da dove spunta fuori, Scalfarotto? Siete riusciti a capirlo? Ma non è che sia molto difficile, francamente. Diciamo che tutto il processo di riforma costituzionale nasce da un testo di disegno di legge del governo, firmato da Renzi e da Boschi, nel quale questa immunità non esisteva. Dopodiché la Commissione Giustizia del Senato, e io devo rendere atto alla Presidente Finocchiaro di aver fatto un lavoro enorme, da circa forse da 40 giorni, un mese e mezzo, ha fatto un lavoro veramente incredibile, sono intervenuti tutti i componenti della Commissione, anche altri senatori che abbiano voluto parlare, ci sono state audizioni di importantissimi costituzionalisti e quindi i due relatori, Finocchiaro e Calderoli, hanno riassunto tutta l'attività, tutto il lavoro che ha fatto la Commissione in una serie di emendamenti che andavano a correggere il disegno di legge del governo. Tra questi c'è questo elemento dell'immunità che non è stato inventato dalla senatrice Finocchiaro, ma che è stato sollevato da alcuni costituzionalisti. Oggi per esempio Repubblica riporta il parere di Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, che dice i membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni devono essere coperti da immunità, perché questo garantisce la loro libertà, la loro indipendenza. Per cui è un elemento che è venuto fuori dalla discussione, che i relatori hanno deciso, nella loro discrezionalità giustamente, di inserire, che adesso si offre al dibattito parlamentare. Benissimo, tendenzialmente voi siete contrari. Noi non l'avevamo previsto, inizialmente, dopodiché l'emendamento non è soltanto uno. Io dico che la senatrice Finocchiaro ha anche molto ragione quando dice, abbiamo fatto un lavoro enorme, di tutto questo lavoro parliamo soltanto di un singolo emendamento, guardiamo un albero e perdiamo d'occhio l'intera foresta. Ci sono molti emendamenti che vanno a toccare il disegno di legge del governo, migliorandolo, cambiandolo, e tutti questi adesso sono ovviamente a disposizione del Senato. Però non mi ha risposto, Scalfarotto, però non mi ha risposto. Io capisco, sì, è stato fatto un grande lavoro, per carità, però vedo che il tema di discussione su questo è abbastanza forte, come lei sa. Io non ho capito se avete una posizione precisa come governo su questo oppure no. Noi non l'abbiamo, non l'avevamo previsto, però ripeto, rispetto a questo emendamento e molti altri emendamenti noi dovremmo verificare che cosa succede in Senato, come va la discussione. Pensiamo, ripeto, che l'intero impianto della riforma non si risolva semplicemente in questo elemento. Esistono elementi pro, elementi contro, perché ripeto, molti costituzionalisti hanno sottolineato che questo era importante. A noi non sembrava come governo fondamentale, tant'è che non l'avevamo previsto, ma così come esamineremo con attenzione altri emendamenti, esamineremo con attenzione questo, vedremo il dibattito come va. Quindi lo rimettete al dibattito parlamentare, in sostanza? Se vuole sapere da me se io metto a rischio l'intera riforma costituzionale per questo articolo, io le dico che non mi pare il caso. Per cui noi teniamo d'occhio il risultato nella sua interezza, che è superare il bicameralismo paritario, rimettere a posto le competenze tra regioni e Stato centrale, rendere più moderno e più efficiente il nostro sistema. Vediamo se questo aspetto è veramente fondamentale e se alla fine nel dibattito parlamentare resterà oppure no. Benissimo, allora io intanto la ringrazio, Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento, che lo diciamolo anche per gli ascoltatori che poi ci scrivono. È chiaro, non si è voluto sbilanciare tanto su questa cosa qua. Comunque io intanto la ringrazio e saluto qualcuno per cui invece è fondamentale, che è Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle, non Carla Ruocco in quanto tale, ma in quanto Movimento 5 Stelle. Benvenuta, Ruocco. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Senti una cosa, per voi questo è un elemento dirimente naturalmente, no? Questo dell'immunità. Ma noi siamo ovviamente contrari, e lo dico in maniera molto chiara, differentemente da chi mi ha preceduto che gioca con le parole. Noi siamo contrari. No, vabbè, però non la metta così, non la metta così, perché non è più in linea, insomma, dico, perché sennò mi tocca richiamare Scalfarotto e farlo rispondere. No, non si preoccupi, è che non ho capito alla fine neanche io il concetto che voleva esprimere, quindi magari non era chiaro. Ad ogni modo, noi siamo contrari all'immunità parlamentare, con la nostra coerenza non ce ne avvaliamo neanche, come d'altronde con i rimborsi elettorali noi non li abbiamo presi, abbiamo restituito 42 milioni di euro perché siamo contrari ai rimborsi elettorali, e quindi per noi questi argomenti sono pacifici, veloci, facili da affrontare. Non vedo perché tutto questo confusione all'interno dei partiti. Però ci sono anche dei pareri di autorevoli costituzionalisti che dicono, insomma, è un modo l'immunità parlamentare per tutelare la politica da eventuali azioni, insomma, che non sono necessariamente delle azioni, come dire, della magistratura, che non sono necessariamente delle azioni, non sono necessariamente corrette. Noi siamo dell'avviso che un politico deve essere molto più vicino al cittadino in quanto figura proprio quotidiana, quindi noi siamo dei politici, ci definiamo, amiamo definirci cittadini, i cittadini comuni devono essere, i politici devono essere sullo stesso piano dei cittadini comuni. C'è anche un modo per tutelare l'opinione politica, ovviamente, che non ha nulla a che vedere con l'immunità parlamentare e dell'abuso che è stato fatto dell'immunità parlamentare. Quindi non parliamo del fatto che se io sono un parlamentare possa, durante una seduta d'aula, possa esprimere una mia opinione, perché quello assolutamente va tutelato. Qua parliamo di alcuni reati che ovviamente rispetto ad un cittadino, dinanzi al quale la giustizia si comporta in un certo modo dinanzi ad un cittadino comune, non capisco perché davanti ad un parlamentare per lo stesso reato non bisogna comportarsi allo stesso modo. Senta Ruocco, vi aspettate davvero qualcosa da questo incontro con il governo, con la maggioranza, per sulle riforme istituzionali, sulla legge elettorale, oppure lo considerate così una sorta di tentativo a tempo perso? Noi non abbiamo fatto un tentativo a tempo perso, quindi ci aspettiamo qualcosa, sicuramente ci aspettiamo una grande accelerata, la presa seria in considerazione della nostra consultazione con i cittadini, perché noi abbiamo consultato 250.000 persone, abbiamo stilato una legge elettorale completa, e quindi no, ci aspettiamo sicuramente qualcosa. Mi scusi Ruocco, io lo dico sempre ai suoi colleghi, non avete consultato 250.000 persone, avete consultato un certo numero di cittadini. Nel complesso ci sono state 250.000 votazioni. Sì, certamente molto meglio che sicuramente. Sì, no, nel senso non sono stati 250.000 i cittadini, sono stati 250.000 i voti effettuati. Sì, i voti, però se vogliamo essere proprio precisi potrebbero essere anche 250.000 persone diverse. Non è detto che un voto si debba ripetere, la stessa persona debba esprimere più volte in più sedi di votazione. Potrebbero essere 250.000 persone diverse comunque. Quanti sono gli iscritti al Movimento 5 Stelle? No, mi scusi, mi soffermo su questo. Io questi numeri specifici adesso, okay, non voglio essere così, però sicuramente sono intorno ai 250.000, ci arrivano. Ad ogni modo adesso non siamo qui a vedere, abbiamo consultato i cittadini in rete in maniera trasparente, sono venute fuori 250.000 espressioni di preferenza da parte delle persone, e non siamo andati nelle segrete stanze del Nazareno a concludere accordi a sottobosco, per cui questa è la nostra proposta, molto chiara, molto limpida, la mettiamo sul tavolo e speriamo che verrà finalmente presa in considerazione. E vedremo che cosa succederà. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. In apertura l'Iraq, dove si trova in queste ore il segretario di Stato americano Kerry. Centinaia di soldati tra decapitati ed impiccati sarebbero stati trovati in una serie delle in alcune zone dove si trovano gli jihadisti dell'ISIS. Questo è quello che però riferisce per il momento solamente il governo del premier iracheno Nouri al-Maliki. Non ci sono altri dettagli e altre fonti appunto al momento. Caso Iara, il procuratore di Bergamo a Radio 24 dice che crede che si possa andare a giudizio immediato per Bossetti. La nostra è una verità scientifica, crediamo o non crediamo alla scienza, aggiunge. Firmato l'accordo tra General Electric, che acquista una parte energetica di Alstom, e anche il governo francese. Gli americani promettono 1000 posti di lavoro in 3 anni e dovranno pagare 50.000 euro di penale per ogni posto non creato. Si va verso la coppia Balotelli immobile per l'attacco italiano contro l'Uruguay. Lo spettro del fallimento aleggia sulla spedizione azzurra ai mondiali brasiliani. Più tardi ci sarà la conferenza stampa di Prandelli. È il momento della borsa. Borse in diretta. Giornata complessivamente negativa, FTSE MIB giù dell'1,01%, FTSE OSHER dello 0,97%, Isabella Tasso, Radio Core Il Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Come mai vanno male le cose? Sono negativi tutti gli indici in Europa, appesantiti anche da dati poco brillanti sul manifatturiero e sulle attività dei servizi nell'Eurozona, questo nel mese di giugno. Va peggio Piazza Affari, si salvano solo Finmeccanica ed Eni. Il FTSE MIB è appesantito dal comparto dei bancari e dal rosso di alcuni titoli di rilievo che trattano ex dividendo. In fondo al paniere della blue chip infatti ci sono Terna che cede il 4% ed Enel che cede il 3,6%, hanno entrambe staccato una cedola da 13 centesimi per i titolari delle azioni ordinarie. Staccano il dividendo anche A2A meno 2,6% ed Exor meno 2,3%. Perde anche il 3,4% la Popolare Emilia Romagna, questo nel primo giorno di aumento di capitale da 750 milioni, i diritti scivolano di oltre 15%. E grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Saluto il sovrintendente degli scavi archeologici di Pompei, Massimo Sanna, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Speriamo che la linea regga perché mi risulta in treno lei, in viaggio, viaggio verso Roma. Verso Roma. Allora, sono state sospese le agitazioni sindacali negli scavi, questa mi sembra una buona notizia, Osanna, innanzitutto. Sì, infatti. È accettabile però, sono accettabili cose come quelle che sono avvenute ieri con 500 turisti rimasti fuori? No, per... assolutamente no, è questo che ho cercato di far capire col buon senso a tutti. Io sono ma le cose che dobbiamo fare in momenti come quello di domenica. No, evidentemente la linea non regge. Allora, mentre proviamo a ripristinarla, sentiamoci che cosa ci racconta il nostro Daniele Biacchesi sul post concerto dei Rolling Stones. Di ora in ora diventa stucchevole la polemica sui costi di allestimento e sui ricavi provenienti dal concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo di Roma. Dunque, per anni l'Italia non era la rotta privilegiata dei grandi tour mondiali delle star del rock. Fu così per tutta la seconda metà degli anni 70, dopo che ogni concerto di musicisti internazionali, ma anche italiani, era corredato da scontri tra contestatori e polizia. Il ricordo del palco di Carlos Santana, incendiato dagli autonomi al Vigorelli di Milano nel lontano 1977, resta ancora indelebile agli occhi degli appassionati di musica. Così come le tante esibizioni troncate a metà, come quella di Lou Reed a Milano nel 1975, spostate di data e luogo, annunciate mai organizzate, come il Festival Fasullo di Misano Adriatico all'Autodromo, perfino le truffe come il concerto di Neil Young a Venezia. Per molto tempo, cioè, i promoter musicali italiani venivano catturati catalogati spesso dai loro colleghi americani e inglesi come inaffidabili. Invece dalla metà degli anni Ottanta in poi le cose sono cambiate anche nel nostro paese e i grandi artisti della musica internazionale amano suonare in Italia. Gli stessi promoter sono enormemente cresciuti, hanno affinato la tecnica e oggi sono alla pari, se non migliori. È risultato molto alto, infatti il livello organizzativo dello spettacolo andato in scena ieri sera al Circo Massimo davanti a 70.000 persone paganti. Il luogo è stato completamente transennato, messo in sicurezza, gli ingressi erano dislocati in più punti, non si sono mai verificate resse davanti ai tornelli, gli spettatori affluivano e defluivano in modo tranquillo e ordinato. Tutto quindi funzionato grazie alla professionalità dei promoter. È vero che 7.934 euro per l'affitto del Circo Massimo è poca cosa se si paragona questa cifra con quella applicata da altre città come Londra. È altrettanto vero che non si può far pagare 2 euro di tasse di soggiorno a chi è andato a dormire in un albergo 3 stelle e a chi, come i Rolling Stone, ha soggiornato in una suite a 5 stelle dalla modica cifra di 14.000 euro a notte. Ma è altrettanto vero quanto afferma il sindaco Ignazio Marino. Ieri a Roma sono arrivate almeno 60.000 persone che hanno mangiato, dormito, consumato e creato in un giorno un ricavo complessivo per la città di almeno 25 milioni di euro. Scusate se è poco. Abbiamo ripristinato, forse, sperando che regga, il collegamento con Massimo Sanna, sovrintendente di Pompei. Eccoci di nuovo, Sanna. Si parlava dell'inaccettabilità di uno sciopero, di un'assemblea come quella di domenica. Sì, io, come le dicevo, sono ovviamente favorevole alle utilizzo tutte le assemblee necessarie, perché sono dalla parte dei lavoratori, ma sono anche consapevole che queste non dovrebbero essere a discapito della questione del sito e soprattutto dell'immagine che stiamo dando. Questo evidentemente non ce la facciamo, è troppo ballerina la linea per continuare a parlare con Massimo Sanna. Facciamo così, Osanna, io la saluto, poi quando arriva a Roma la chiamiamo da qua, da Radio 24, e facciamo un'intervista con una certa serenità, e magari nei prossimi giorni ci risentiamo per effetto giorno, perché così non riusciamo a starci. Grazie a Massimo Sanna, sovrintendente di Pompei, per essere stato con noi. Voglio solamente un paio di una risposta ad un'ascoltatrice che giudica morbida l'intervista con Scalfarotto e giudica un duro interrogatorio con Carla Ruocco e il Movimento 5 Stelle. Si vada a riascoltare quello che abbiamo fatto. L'intervista con Scalfarotto, abbiamo tentato di stanare il governo sulla sua posizione sull'immunità e vi siete fatti voi, direi, una chiara idea della posizione del governo, che evidentemente in questo momento non c'è. Con Carla Ruocco abbiamo parlato tranquillamente di riforme finché non ha fornito un dato, i 240.000 voti, o meglio i 240.000 cittadini che avrebbero votato per la riforma della legge elettorale tramite il sito di Beppe Grillo, che è un dato oggettivamente non vero, una cosa che è pubblica, è uscita anche sui giornali, non solamente quelli che il Movimento 5 Stelle considera nemici, e semplicemente questa cosa gliel'abbiamo fatta notare. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Instabilità un po' dappertutto, in Iraq, in Siria, in Ucraina, minaccia di nuove sanzioni. Seguiremo nel corso della settimana queste instabilità politiche internazionali. Credo che abbiano una radice comune sia nella confusione del modello economico che non riesce a decollare, e sia, devo dire, nella confusione di un modello politico istituzionale che credo sia entrato in crisi. Ecco, di questo si è parlato durante un convegno organizzato dalla Bocconi per gli ex alunni a New York la settimana scorsa, e in particolare ne ho parlato con Mario Monti, che ha partecipato a questo convegno. America 24. Ecco, uno dei temi centrali ha riguardato proprio la crescita. Ecco, lei che percorso vede? Perché io ho l'impressione che si ripetano un po' le stesse cose e poi si faccia poco. È ottimista? Crede che forse qualche cosa può succedere? Ma a livello europeo, con tutte le complicazioni del quadro europeo, che non è facile alle decisioni rapide, Io penso che non si tratti di rimettere in discussione la disciplina di bilancio e quindi il patto di stabilità e di crescita, si tratti però di averne una interpretazione, un'applicazione consapevole che in particolare riconosca il ruolo importante che gli investimenti anche pubblici, non solo privati o di partnership pubblico-privato possono avere per giovare all'economia europea, non giusto come delle spruzzate di domanda di spirito puramente keynesiano, ma che ha la caratteristica di creare una maggiore capacità di offerta in futuro. Penso a interventi che sono essenziali per avere sul terreno un mercato unico europeo, per esempio gli interventi per le interconnessioni energetiche, gli interventi per le connessioni a banda larga, eccetera. Quindi investimenti pubblici, investimenti cercare di rilanciare pubblici le infrastrutture che, importanti, insomma, che sono importanti appunto non solo, e penso alla, all'ottica tedesca sempre molto selettiva, non solo perché sono componenti della domanda, ma perché possono rimuovere dei bottlenecks strutturali e perché facendo funzionare meglio un giorno il mercato unico possono avvicinare l'Eurozona a quelle condizioni di una area monetaria ottimale che gli Stati Uniti hanno da decenni ma che l'Europa non ha ancora. E lei crede che il governo Renzi si stia muovendo in questa direzione? Penso abbia proprio presupposti? Di sì, alla l'autorevolezza che discende dalla figura dinamica e giovane del Presidente del Consiglio e dal bottino di voti che ha ottenuto e che in fondo porta con sé alle discussioni europee nelle ultime elezioni europee. Ecco, guardando un quadro più lontano, il futuro, insomma, ci sono dei dubbi sistemici. Abbiamo visto delle elezioni in Europa che hanno dato ampio spazio a un populismo che molti considerano deleterio, c'è dubbi sulla tenuta delle democrazie rispetto a modelli, per esempio in Cina, che sembrano fare meglio. Si sta discutendo un po' del futuro dello Stato, del futuro dei modelli politici, del futuro del capitalismo. Beh, la cosa interessante di questo convegno dei bocconiani a New York è che tutti abbiamo riscontrato un eccesso di preoccupazioni di breve termine e di brevissimo termine nell'orizzonte decisionale delle imprese, ma anche dei governi. Quindi se la democrazia vuole essere un'alternativa vitale a regimi non tanto democratici come per esempio quello cinese, deve essere in grado di non lasciare a loro l'esclusiva della capacità di prendere decisioni con un orizzonte di lungo termine. Quindi questo pone il problema di sistemi politici in cui i media, l'attenzione limitata dell'opinione pubblica sposta tutto il fuoco sulle questioni di breve e brevissimo periodo, cioè sembra che il destino dei paesi consista nel chi vince le prossime elezioni, mentre sappiamo tutti che gli interventi oggi necessari per le riforme strutturali in Europa, in America e altrove sono interventi che possono generare risultati sull'arco di molti anni. Quindi come conciliare la brevità di orizzonte dei sistemi politici con la larghezza di orizzonte che è necessaria per prendere buone decisioni. America 24. Ecco, in serata poi c'è stata una grande cena con tutti gli ex allievi, devo dire una gran quantità di persone, ha partecipato anche Sergio Marchionne. Capitalismo inclusivo, lei ne ha parlato un po' stasera, cioè della necessità di cambiare, di guardare più nel lungo termine. Come concilia, diciamo, le esigenze del mercato che punisce un titolo se non dà risultati con le necessità di investimento? No, ma guardi, infatti è vero, perciò ho parlato tanto di leadership, di capacità di far valere i propri valori, no? Il mercato non lo può ascoltare, non lo può ascoltare. Ho parlato anche del fatto che il mercato non ha né coscienza né etica, quindi cerchiamo di non imporre lo stesso. Guardi, è successo qualcosa negli scorsi 20 anni che dà molto molto fastidio, il fatto che siamo partiti da una cosiddetta market economy a una società di market. sono due concetti completamente diversi. Ne ha parlato anche il governatore della banca, della banca inglese. Il problema è enorme. E il suo board la segue in questo, nella necessità di aprirsi? Sì. Sempre fatto. Ecco, e se si deve trasporre questo dal punto di vista politico, se ne è parlato un pochino, diciamo ci sono dei modelli che, soprattutto nel mondo occidentale di democrazia, che sono sotto assedio, per esempio da un modello cinese, da un modello russo. Lei teme che possa cambiare qualche cosa in modo radicale se non si fa qualcosa da qui ai prossimi anni, ai prossimi decenni? Questo ne ho parlato in altre occasioni. Il rischio alla stabilità del sistema comincia a aumentare se non cominciamo ad allargare un po' l'ambito della copertura. Tutti i sistemi che spingono eccessi vanno a creare problemi nel lungo termine, quindi se non ci muoviamo adesso ne pagheremo il prezzo più tardi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti. Lei, da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera, seguitemi su america24.com, su Twitter @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Parliamo di incertezze, non sappiamo quello che succederà nel nostro futuro, cerchiamo di capirlo. Ho pensato a un cantante, Sam Smith, che ha debuttato in questo weekend col suo album In the Lonely Hour. Pensate, ha già venduto 160.000 copie. Ecco, nel weekend ha diffuso una cover della canzone di Whitney Houston, How Will I Know? Come farò a sapere? Ve la propongo, di Sam Smith, How Will I Know? I'm asking you what you know about this thing. How will I know if you're thinking of me? I try to fall, but I'm too shy, can't speak. Falling in love is all bittersweet. This love is strong, why do I feel weak? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, a Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, oppure mi trovate su Twitter. Se volete, Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook come sempre. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno invece torna come sempre domani alle 13.